Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sosso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Adesso come la settimana scorsa, la pressione è sugli altri, la differenza è che avremo meno 5 e almeno un giorno di più. Giovinco, prova a liberare il sinistro, Giovinco la piazza, rete, Giovinco, gran gol, Juventus in vantaggio. Pirlo è uno schema, palla sul secondo palo, scuffetto Anceria, porta vuota, rete, Llorente, 2-0. Raddoppio della Juve, 14° gol in campionato per Llorente. Anche la settimana scorsa, e speriamo di avere questo scarto ancora quando andremo alla Fiorentina sabato prossimo. Il primo entrenatore di questo programma, Fabio Cantadori, in regia, come acqua che scivola in un lavandino, mettiamola così, come carta straccia. Le parole della vigilia di Garcia, l'immagine del lunedì sera è quella di Conte che spara un paio di vaffa di pura rabbia agonistica a fine partita, abbracciando tutti a Udine. Mi sembrava qualcosa di simile all'ultima crono del Giro d'Italia. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao. Carta straccia la classifica del giorno prima? Ma sì, insomma, era anche abbastanza prevedibile. A Udine? Anche se c'è Paolo con la solita professione di macismo, se avete le palle parlate della solita partita dell'amicizia che è tutti gli anni Udinese-Juventus, era prevedibile secondo te? Secondo me era prevedibile, sì, del resto insomma, l'ho detto ieri, quindi non è che posso aver cambiato idea. Mi pare che per quanto ci siano degli sforzi ammirevoli giornalistici e dovuti anche al calendario di tenere questo campionato in vita, anche perché la Roma se lo merita, cioè la Roma ha 79 punti che sono più dei punti che hanno avuto le squadre che hanno vinto il campionato negli ultimi anni a questo punto della stagione, quindi vuol dire che sta facendo pienamente il suo dovere per poter vincere il campionato. È solo che ci sono i marziani e quindi poi insomma, al di là di tutto, mi sembra che il campionato era finito già ieri, era finito anche se pareggiavano, quindi figuriamoci. No, ma infatti, ma ti dico, io non ho mai pensato che il campionato potesse essere in qualche maniera riaperto, anche perché tu ieri hai fatto una domanda retorica, dove può perdere 9 punti, perché di fatto si leggono 9 da qui alla fine, domanda retorica, risposta scontata, però ieri sera la Juventus ha fatto una prova di forza a Udine, secondo me. Perché puoi aspettarti un pareggio, ma con quella la cattiveria dei giorni migliori, secondo me. La Juve è fortissima dall'inizio della stagione. In Europa ha faticato, sappiamo bene che è stato l'unico fallimento fino a questo momento di quasi 3 anni di Conte, e quello è stato sicuramente un fallimento. In Italia ha dei numeri che si commentano da soli. Devo dire che sicuramente rispetto a qualche partita fa, a quel trittico di Genoa, Catania e Parma, sicuramente abbastanza complicato, anche la stessa partita con la Fiorentina, adesso questa Juve mi sembra un pochino più serena. Non so se c'entra quello che maliziosamente diceva l'ascoltatore, che però potrebbe valere anche per l'Atalanta, sinceramente, cioè che a questo punto della stagione le squadre poco motivate siano un po' più in difficoltà del solito è una cosa che succede senza pensar male da tanti anni, è un fatto di pura adrenalina che manca, però il discorso che si può fare, che si può provare a fare sull'Udinese, lo devi fare anche sull'Atalanta, perché pure l'Atalanta sarà portata via abbastanza banalmente dalla Roma. Sì. Così come abbiamo giustamente sottolineato la grande partita della Roma, credo che allo stesso modo lo si debba fare con la Juve, che ieri veramente ha giocato una partita della grande squadra, la squadra che è scesa in campo subito per mettere le cose in chiaro, l'ha decisa, l'ha vinta e adesso ci concentriamo sull'anno prossimo, secondo me, insomma. Per la Roma questo è uno scudetto, cioè non è il secondo posto degli anni scorsi, Però per gli Albi d'Oro, sai, il secondo non viene mai ricordato, Pier. Sì, è uno scudetto, questo in assoluto sì, ma dal punto di vista dei progetti, delle ambizioni dell'anno prossimo, il secondo posto si tornerà in Champions League, e tutto quello che ti volevo dire è che rispetto ai due secondi posti dell'epoca Sensi contro l'Inter, che sono stati due scudetti realmente sfiorati dalla Roma, quello con quello di Ranieri, addirittura con la beffa di essere passato in vantaggio dopo la lunga rimonta per persi in casa con la Samp, sì. Quindi quei due campionati secondo me alla Roma hanno lasciato comunque un grande amaro in bocca. Questo secondo posto secondo me è diverso. Certamente. Il secondo posto è un trionfo, è letteralmente un trionfo, perché di più non si poteva fare e perché le prospettive della vigilia erano completamente diverse, quindi è una rivoluzione, però la Juve è avanti a 8 punti in più e se lo merita per me. Allora, 800240024, vi ricordo che anche oggi vogliamo vestirvi con la nostra maglietta speciale Tutti Convocati al migliore in campo, che tra gli ascoltatori che interverranno oggi, che stanno per intervenire, una maglietta di Tutti Convocati, poi vi riepilogo invece la seconda parte della nostra fantastica iniziativa. Pierluigi, stai lì ancora un attimo, strada e poi torniamo. Adesso come la settimana scorsa, la pressione sugli altri, la differenza è che avremo meno 5 e almeno un giorno di più. Tutti convocati. Allora, io ho anche un sacco di messaggi, 349-238-6666, mandate, io leggo, leggo qualcuno, leggo tutti privatamente, compresi i peggiori, ma poi qualcuno lo leggo anche in pubblico, come questo, spenda due parole per la curva sud di Milano che ha intonato, You'll never walk alone, come 25 anni fa in ricordo dei 96 morti inglesi di Hillsborough, ti ricordi, 89, oggi 25 anni da quella... Da quella tragedia. È arrivata anche la segnalazione ieri sera dopo Tichità, che abbiamo fatto una clip, un ricordo anche perché Roncone, che noi sta il Corriere della Sera, ha inviato, era proprio tanti anni fa per Paese Sera, ha inviato a Sheffield quella tragedia, quindi l'abbiamo ricordata e l'unica cosa che ti sento di continuare a dire è che in Inghilterra, quella tragedia è stata terribile, in Inghilterra però sono successe due cose da quella tragedia. Primo, hanno completamente cambiato la struttura degli stadi inglesi. Forse, anzi senza forse, si è perso anche un po' di fascino, perché per esempio la Coppa, la curva di tifosi del Liverpool in piedi era uno spettacolo e come lei tante altre, però oggi una svolta. Gli stadi sono sicuri e questo è un dato di fatto oggettivo. E la seconda cosa è che nessuno in Inghilterra, nemmeno un tifoso del Manchester United o dell'Everton, che sono le due grandi rivali del Liverpool, si permette di fare battute su Isboro, e noi invece siamo indietro, perché sappiamo che l'Aisel, Superga sono oggi, ma certo, ma poi ci di che ci sorprendiamo poi di Cardi e Vandanare, Maxi Lopez eccetera, abbiamo quello che ci meritiamo. C'è anche chi scrive un'altra cosa molto cattiva: dite ai romani che la moglie di Nainggolan è juventina. Gilberto da Trento, siamo così, purtroppo siamo così. Invece, guarda, magicamente, 25 anni dopo quella tragedia, il calcio è meraviglioso per questo. Guardiamo il Liverpool l'altro giorno e alla fine della partita non ci sono i vaffa di rabbia di Conte che abbraccia e si coccola i suoi giocatori, ma c'è questa scena, capannello intorno al capitano Steven Gerrard. E ora Norwich, andiamo con questa rabbia, vogliamo vincere, questo è il nostro anno. Io, guarda, ti dico, ma io lo so che lo fai anche tu, ma faccio un tifo scalmanato per il Liverpool quest'anno. Quest'anno tifo sicuramente per il Liverpool, e credo che sia veramente, sarebbe una storia meravigliosa. Non lo so, forse perché uno poi comincia a fare il giornalista, conosce giocatori, conosce personaggi, racconta storie. E poi finisce per non perdere l'emozione di questo gioco, ma non la incanala più nelle barriere dei confini del tifo, racconta le storie, e questa è una storia fantastica. Quell'immagine di Gerrard, che tra l'altro ha perso il parente 25 anni fa a Hillsborough, è qualcosa di eccezionale, per cui io spero che ce la facciano, anche perché sarebbe uno scudetto assolutamente sorprendente da quelle che erano le idee della vigilia. È una squadra di grande talento, uno di tutti Suarez certamente, ma non era la favorita, insomma sarebbe clamoroso. Sì, poi se non lo vincono loro, la mia seconda scelta è Mourinho, perché sì. Alessandro da Bologna, buongiorno. Sì, salve. A proposito di piccolezze italiane, volevo chiedere a Pierluigi Pardo che è un esperto in materia, non difficile per motivi di residenza, se secondo lui il tifo romanista si libererà mai di quel provincialismo da grande raccordo anulare rappresentato per esempio qui ieri in altre occasioni, anche ieri sera da lui in questa radio, da Luca Telese, che continua a farneticare di aiutini, che detto poi da ognuno se lo gira come gli pare, perché anche detto da un romanista dopo la mancata espulsione di Destro, dopo il fatto che la Roma ha avuto solo un rigore contro, a parte quello di Cagliari, influente, eccetera, eccetera, insomma, e soprattutto ancora più risibile secondo me parlare di episodi fortunati della Juventus che confondendo per esempio un calcio di punizione di Pirlo con un episodio fortunato. Ecco, secondo me però Alessandro, adesso lascio giustamente la risposta per Luigi, è chiamato sì. In causa, però si può anche fare dell'ironia, no? Si può anche ma lei ha perfettamente ragione, ma siccome è chiaro che una punizione di Pirlo non è un colpo di culo, ma non mi riferivo a tutti. Siccome Luca Telese è un disco rotto, sì. E allora mi sembra che fai riunire una volta, ma riconosci ogni tanto l'oggettività dei fatti, non, perché poi è proprio un fenomeno esplicitamente romanista. Già i laziali sono diversi, poi ovviamente appena escono dal grande raccordo anulare, tutti gli altri italiani ridono di questa interpretazione così. Ma forse è anche fatta per quello, no? Pierluigi, tocca a te. No, beh, adesso Luca ormai sta diventando, oltre che un ottimo conduttore di Matrix che fa in onda stasera, e faccio in bocca al lupo ovviamente, è una persona a me simpatica, ma sta diventando certamente ormai un opinionista calcistico a 360 gradi. Io ricevo tutti i messaggi alla fine delle puntate di Tiki-Taka, insomma, è chiaramente lui, Mughini, Auriemma, tra i tre che ricevono più improperi a seconda dei punti di vista. È chiaro che più dai un punto di vista forte e più ti puoi attirare chiaramente delle critiche. In generale sull'ambiente di Roma, è chiaro, l'ambiente di Roma è un po' claustrofobico, nel senso che, come mi ricordo chi lo diceva ieri sera, forse Roncone, a Roma ci sono 6-7 radio che dalla mattina alla sera fanno... Sparano calcio e opinioni. E quindi è chiaro che c'è un effetto di amplificazione di tutto quello che succede. Poi c'è sicuramente un'abitudine a non sentirsi il potere, a sentirsi contro il potere, ma questa cosa secondo me non ce l'ha soltanto la Roma, ce l'ha avuta per anni ad esempio l'Inter, che ne ha fatto una battaglia, giusto o sbagliata che sia, ma insomma credo che questo atteggiamento ce l'hanno avuto sempre, molto spesso anche i tifosi dell'Inter, generalizzando, però io dire, le grandi diciamo correnti culturali, filosofiche contro... di chi si sente underdog, per dire all'inglese, sì. Di chi si sente nemico dei potenti e quindi pensa di poter dar fastidio, io credo che gli interisti per tanti anni abbiano fatto esattamente abbiano avuto lo stesso tipo di dinamica, ma e certo. A Milano non ci sono 6 radio dalla mattina. No, ma ti ripeto, io, come in buona parte, in larga parte è giusto che sia, perché io penso che vada bene tutto, io penso che ci sia il pieno diritto dei tifosi della Roma di sentirsi defraudati in certe circostanze, come c'è il pieno diritto dei tifosi della Juve nel pensare di essere comunque più forti e nel godere sottilmente degli altri che parlano male della Juve, che è una dinamica chiarissima del tifoso bianconero, che è una dinamica che evidentemente i tifosi bianconeri percepiscono come una certo, dimostrazione detto questo, plastica no, ma poi detto questo io onestamente sono la squadra numero uno. No, ma io onestamente, come ho detto già diverse volte, fossi un tifoso da Juventus, insomma, ci rimarrei male, e sto usando vari eufemismi, nel frequentare gli stadi e sentirmi dare del lato da chi che sia, dal bar alla curva. Ma sicuramente, le dinamiche sono queste. Tra l'altro degli anni, innanzitutto, la Juve, questo va ricordato, ha pagato sì. Una sentenza che comunque sarà storica, per cui, voglio dire, questo... Non si può discutere, no? Perché quando uno poi sconta una pena, va in Serie B e comunque ha pagato, non gli puoi continuare a dire le cose perché ha pagato. Al di là del, non entro nel merito della vicenda, se no abbiamo un filone all'infinito, però insomma c'è stata una condanna e nel momento in cui uno fa una condanna si ricomincia da capo, questo non ci sono assolutamente dubbi. Ma io in generale dico che divertiamoci, lo so che per noi è più facile che ce ne possa fare di meno, però ma è chiaro. Divertiamoci nel senso, ma infatti che il confine è quello. Ieri sera Gianmarco Tognazzi ha detto una roba tra virgolette terribile sulla maglia all'Inter che gli fa schifo, cioè, non c'è niente di male, è ovvio che chiunque viene a giocare in punta di dialettica condivide la passione, siamo tutti meravigliosamente, maledettamente perduti per questo gioco, indipendentemente dalla squadra della ma poi ci deve essere una linea di confine tra il divertirsi e l'arrabbiarsi per forza di cose e farsi sangue amaro, no? Massimo, lei cosa dice? Reggio Emilia, buongiorno. Sì, io sono interista e posso confermare che quando le cose ti girano male tutti si lamentano, anche i gobbi che adesso fanno i superiori sono ancora lì che vorrebbero lo scudetto del 2005, quindi sì. siamo tutti uguali sotto questo aspetto, insomma, niente da dire. Ed è bello così. È bello così, insomma, a volte dipende da come gira la ruota, ecco. Sì, certo. Ma niente, guarda, io volevo solo dire una cosa su Mauro Icardi. Sì. Vabbè, io naturalmente parlo per partito preso. Io sono d'accordo con lei, Carlo, quando lo critica, perché io sono padre di un bimbo piccolo e non vorrei mai che mio figlio si ritrovasse in una situazione come i bimbi postati anche ieri, per la verità, lei lo sa, no? No, ma guardi, con la maglietta alla Pinettina, con la maglietta nerazzurra numero 9, a me fa, Carlo, schifo questa io, allora, in quella situazione lì io andrei dall'uomo responsabile e gli direi quattro parole, gli direi qualcosa a quattro occhi, perché mio figlio tu non lo metti su internet senza il mio permesso, e quindi su questo, Carlo, io e lei andiamo d'accordissimo. Mi permetto solo di dire, sarà perché naturalmente per una volta che abbiamo vinto, insomma, però domenica mi è piaciuto di più l'Icardi guerriero, mi concede il termine, cioè quello che ha sfidato. Ma io questo, lo capisco, Massimo. Ma io questo lo capisco. Insomma, io questo lo capisco e in parte lo condivido anche. Anche a me piacciono giocatori in grado di comunque di sfidare una situazione avversa. Ma Carlo ha proprio questa passione trasversale per i giocatori di questo tipo, per cui. La verità è che per una buona parte della stagione Icardi non è stato un giocatore di questo tipo. Per una buona parte della stagione Icardi è stato famoso e conosciuto soltanto per le sue gesta erotiche, non certo per il rendimento in campo. Adesso e la partita di domenica può essere veramente un inizio. Io al netto di tutte le cose che ci siamo detti, la moralità ai bambini, Twitter, mandare dei messaggi, ma perché devi provocare le corna che ti pensa, sulle quali penso siamo tutti più o meno d'accordo, perché si può vincere a perdere la vita, ma insomma lo si può fare con eleganza, come diciamo ieri, ognuno di noi, cioè, delle volte, almeno penso, delle volte siamo stati Icardi, delle volte siamo stati Maxi Lopez, delle volte ci hanno fregato la donna, abbiamo pianto per amore, certe volte siamo stati un po' bastardi, cioè, penso che era una logica normale, no? Ecco. E anche qui direi, volemo se bene, la cosa brutta è sicuramente il prendere in giro una persona che in questo momento poi c'è un'altra cosa da dire. Non dimentichiamo che sono personaggi pubblici, tutti e due frequentano dei luoghi affollati molto spesso da un sacco di trogloditi, quindi è una specie di, insomma, te la tiri addosso. Sai anche tu quali saranno i cori da stadio per Icardi e per Maxi Lopez da qui alla fine dei loro giorni da calciatori, quindi dobbiamo considerare anche questo. Sono colleghi, giorno benissimo, l'Icardi calciatore, che ma benissimo, ma strabene, ma strabene, strabene, strabene dal punto di vista, cioè, è quella cosa lì, dal punto di vista del suo rendimento in campo gli dà una spinta, dà una motivazione, benissimo. Ma su questo non ci piove. Pier, senti, ti saluto. No, sto. Rimani? Sì, rimango fino al 45. Saluto anche fantastico. Allora, poi parliamo con Lorenzo da Udine insieme. E poi ti voglio chiedere, anche se è vero che Cassano è più in forma di 10 anni fa, dicono i test della nazionale. Tu devi saperla questa, quindi subito dopo. Ma mangia un quinto di 10 anni fa. Dopo la borsa ce la racconti. Tutti convocati. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Allora, inizio con complimentarmi per un programma che è una spanna sopra gli altri. Oh, grazie. E Pierluigi Pardo, due spanne sopra gli altri come telecronista. Avevo due quesiti da chiedervi. Primo, visto che io sono un tifoso quasi maniacale dell'Udinese, come mai secondo voi quest'anno Luis Muriel non è riuscito a, non dico sbocciare, ma a fare proprio niente? Perché Deludente. Ci pensavo ieri sera. Personalmente io l'ho visto ed è lo vedo da già un po' di tempo ed è potenzialmente uguale, se non superiore, a un altro fenomeno che fa sotto di qua, che è Alexis Sanchez. Sì. Ecco, e poi volevo chiedervi un pronostico secco su chi vince Premier e Liga, visto che io ho una mia idea, ma vedremo insomma. E qual è? Chelsea e Atletico. Chelsea Atletico. Io dico Liverpool, e Barcellona. Addirittura. Io dico Liverpool e Barcellona, però insomma, pronostici come sanno molti ascoltatori non ne becco uno, quindi certamente saranno, ho detto Chelsea Atletico, sono certamente quelli. Quanto a Muriel, insomma, anche a me ha deluso, cioè rischia di rimanere nella classica categoria degli incompiuti. Proprio ieri sera, mentre l'ho visto entrare in campo poi nel secondo tempo, insomma, è quello che tu ti aspetti che esploda, che cominci a segnare magari 5-6 gol in fila, e questo non succede mai. L'abbiamo paragonato, anche perché gli assomiglio un po', l'hanno paragonato a Ronaldo, l'hanno paragonato a Alexis Sanchez, ha ragione. Rimane però in quella terra di mezzo da cui non riesce ad uscire, e ormai sta diventando tardi. Allora, già che ci sono, vi ricordo che migliore in campo oggi e tutti i giorni tra gli ascoltatori una maglietta di tutti i convocati, mentre per quanto riguarda, abbiamo un'altra chicca per voi, cioè una maglietta con autografo di uno sportivo d'eccezione, con invito qui a fare gli opinionisti per un giorno, però dovete mandarci sul sito www.radio24.it, trovate tutto, dovete mandarci un MP3, cioè un vostro commento di un minutino, non di più, su un fatto della settimana. Ovviamente quello del weekend è stata sta partita strana di Marassi. Allora, voglio tornare però a un altro argomento che mi interessa. Vergognatevi, siete vergognosi, siete vergognosi, anche voi siete vergognosi, fa piangere un bambino, che ce la fa a quinta elementare, c'ha 9 anni, è vergognoso quello che è successo. Gentani, mi prendono tutti in giro. Ma cosa fa? Sono più piccolo. Ma basta, cosa sta, Gianvinco non è un bambino. Hai ragione Sebastiano, hai ragione Sebastiano, fa solo la quinta elementare, fa. Non fa la quinta elementare. Facile prendere solo con i più piccoli. Giovinco, prova a liberare il sinistro, Giovinco la piazza, rete, Giovinco gran gol, Juventus in vantaggio. Giovinco voleva andare via dallo stadio, che stava a prendere il triciclo e stava per tornare a casa. No, triciclo, basta Giovinco, questa storia. È una vergogna bella e buona quello che è successo. No, è tutto il giorno che piange, tutto il giorno. Che non voleva andare a scuola, non voleva. Basta. L'ho portato a scuola, poi sono tornato a casa. La maestra è incazzata, mi ha chiamato al mattino per andarlo a prendere, mi ha detto. Ma perché? Sì, Antonio Conte venga a prendere il pargolo, mi ha detto. Sì, sono contento del gol, della vittoria. Una vittoria importante perché comunque non era un campo facile, quindi siamo molto contenti. Penso che si festeggerà appunto quando sarà tutto in mano nostra. Ancora non è nulla di deciso, quindi dobbiamo vincere le prossime partite. Questa è bellissima. Alla fine il pargolo a scuola ci è andato. Aveva vissuto altre notti di slalom e arrembaggi, solo che stavolta fa gol. Per un attaccante è il dettaglio che si fa tutto. Voto 7,5, soggetto ovviamente Sebastian Giovinco, autore Massimiliano Nerozzi, oggi sulla stampa. Ciao Max. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Max. Allora, io trovo incredibile un'altra cosa, cioè come Conte, che di sicuro non è il profeta del turnover, no, riesca a spremere qualcosa da tutti, anche per quelli che per un sacco di tempo finiscono ai margini delle rotazioni, delle preferenze, della squadra, eccetera. Marchisio stesso, Bon e Giovinco. Questo lo trovo abbastanza incredibile. È un po' rimanere su Giovinco, si era spinto ai margini lui, nel senso che minuti aveva anche avuti e non aveva segnato. Ricorderete in Turchia, aveva fatto una grande partita con un assist bellissimo. Lo stesso Conte disse va bene i dribbling, va bene i passaggi, va bene l'assist, ma se sei un attaccante devi segnare. E lui stesso ieri sera, una delle prime volte, con grande umiltà, ha detto quest'anno ho fatto pochi gol e il gol fa la differenza. L'ha messo lui, purtroppo facendo quel mestiere lì deve farlo, sai, per centrocampisti difensori secondo me è un pochettino più facile da questo punto di vista qua. Lui ha questa condanna. Sì, a questa condanna, Pier, però è anche difficile pigliare un attaccante di ok, ti fa giocare un quarto d'ora, però se non segni ti risbatto in panchina per 3 partite. Sì, ma questo è un segno della bravura di Conte comunque. Dici? Sulla, Ma no, ma secondo me, vedi, questa giornata di campionato, per tornare al discorso delle gemelle diverse Juve e Roma, hai visto da una parte e dall'altra delle risposte incredibili da parte di giocatori che giocano poco, e questo è un segno inequivocabile della bravura degli allenatori, una bravura psicologica di tenere, innanzitutto di allenare bene le squadre, certo che comunque anche chi gioca poco si allena ed è pronto, e poi anche di motivare, perché insomma, sicuramente Giovinco quest'anno ha qualche motivo per essere infelice. Ljajic si vedeva non era titolare dalla partita con l'Inter di un mese e mezzo fa, nella Roma ce n'erano tanti, nella Juve ce n'era qualcuno in meno, però comunque mi pare che anche Osborne, anche Marchisio hanno fatto partite, hanno fatto una buona partita ieri, quindi certo. è questa dimostrazione qui, ma sono bravissimi, Conte è bravissimo, li motiva, e poi io credo che Giovinco comunque debba essere abbastanza infelice per la stagione, perché nell'anno del mondiale assolutamente sì, adesso ieri fantastico, adesso manca solo Massimiliano Nerozzi, manca solo il gol scudetto di Quagliarella e una buona partita di Osvaldo, che uno desaparecido, l'altro totalmente deludente. Guarda, la battuta che girava ieri al Friuli, veramente una battuta, era che se la Juve avesse continuato con Osvaldo e Vučić per un altro quarto d'ora la Udinese avrebbe potuto pareggiare. È una battuta un po' cattiva, no, però è vero, Giovinco quest'anno ha avuto molti meno minuti dell'anno scorso, quando ne ha avuti tanti soprattutto per metà stagione, e invece sul turnover che dicevate prima, però insomma, se ti, sarà una banalità, ma se ti fermi a riflettere, ieri è stata la partita scudetto, secondo me, secondo molti, la Juve l'ha affrontata con i due migliori giocatori fuori, Dare Tevez e con Bonucci fuori, che comunque è il regista difensivo, è quello da dove parte il gioco. La Juve ieri ha stravinto con Obona posto di Bonucci, Marchisio per Vidal e Giovinco per Tevez. Penso che sia un messaggio questo. Senti, adesso andiamo verso il Benfica, Pier. Conte ha rifiutato ripetizioni di Benitez, ieri finalmente l'ho visto fare un accenno di turnover pensando a quella coppa, io credo. Sì, in realtà pensando in generale, perché poi comunque chiaramente la coppa la settimana prossima non è questa, quindi semmai il turnover si potrebbe vedere sabato in casa. No, io penso che in questo momento, sinceramente, al di là di tutte le scaramanzie che i tifosi della Juve possono ancora fare, ma insomma, questo è finito, e quindi la cosa più importante, secondo me, è arrivare alla finale di Torino. Può dare veramente una allure completamente diversa alla stagione della Juve, che io ripeto soprattutto per Antonio Conte, perché Conte è bravissimo, ma fino a questo momento non ha vinto fuori dall'Italia. Certo, questo è fondamentale per lui e per la Juventus. Ma secondo me, soprattutto per lui, questa è un'occasione incredibile, perché se dovesse vincere l'Europa League, hai voglia Mourinho a parlare sul fatto che è una coppetta, è comunque un trofeo internazionale vinto, e per vincerlo devi essere bravo e punto, fine delle discussioni. Sì, sicuro. È chiaro che sul meccanismo di retrocessione della Champions dell'Europa League possiamo discutere a vita. Però no, ma al di là di questo, ma lui e la Juventus hanno bisogno per la loro dimensione. Conte anche per il futuro della sua carriera, non sarà per sempre alla Juventus, però ha bisogno di questa di questo, ha bisogno come l'area di questo successo internazionale, perché io credo, Massimiliano, correggimi se sbaglio, che non abbia tutto questo gran mercato internazionale. Quest'estate, a quanto si legge, sarà una sarabanda di cambi di panchina, c'è Martino che probabilmente andrà via dal Barcellona, Blanc che è in dubbio, Ranieri, non ne parliamo. Ballano tanti nomi, quello di Conte quasi da nessuna parte. Guarda, l'anno scorso era proprio andato come dicevi tu, cioè qualcuno ha buntato lì offerte giro per Europa, ma in realtà è stata che l'offerta migliore di quella che la Juve adesso non c'era. E poi, come dicevi tu, una vittoria internazionale, insomma, non mi visto, guardate cosa è successo a Binas Boas, che ha vinto un'Europa League e dopodiché ha fatto disastri ovunque, sì. Ha fatto un contratto da pazzesco. E poi, sai, sul mercato degli allenatori hai ragione, si potrebbero liberare molte panchine, però bisogna vedere anche gli allenatori emergenti, cioè Klopp, per esempio, e calza con quel che dicevi, avendo essendo arrivato l'anno scorso alla finale di Champions League persa, ma insomma con una squadra che ha nettamente inferiori, è sicuramente un nome sotto i riflettori molto più di quello che Conte. Non so se ragione o meno, oppure prendi Brendan Rodgers. Se vincesse mai la Premier, insomma, sai, è un grande colpo, perché il Liverpool non è che partisse in prima fila. Vabbè, ma lo stesso discorso può valere anche per Garcia, no? Che comunque si è consacrato. Sì. Vale ovviamente per Simeone, che magari chissà cosa vince. Quindi fatto sta che Conte non circola come nome per queste grandi panchine. Massimiliano, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie. Adesso saluto anche Pierluigi Pardo, dopo che mi ha raccontato della dieta di Cassano, perché sono curioso. No, ma la dieta di Cassano, non lo so, io l'ho visto l'altra sera ed è motivatissimo, ma anche dal punto di vista gastronomico veramente quasi irriconoscibile. Vabbè, dovevo entrare in dettagli, c'era una cosa di pesce crudo, mixato, sai, questa cucina fusion, sì, eccetera. C'era un pezzettino di formaggio, non l'ha mangiata perché c'era un pezzettino di formaggio. Mi stavo veramente seriamente preoccupando, ecco, proprio per la sua salute fisica. Poi ho letto questa mentale, cosa, mentale. Quella fisica che funziona. No, però ti dico, sono passati anche 10 anni al 2004, quindi è chiaro che stiamo parlando di un atleta sicuramente più vecchio rispetto al passato. A me sembra di tutti i dati che ho letto oggi, facendo per 30 secondi l'avvocato di Cassano, posso dire che la cosa secondo me decisiva è quel 2,7 passaggi marcanti a partita che lo rende il giocatore che fa più assist nel campionato. Cioè, noi abbiamo bisogno, soprattutto in una nazionale che non parte favorita, abbiamo bisogno di quel tipo di talento. Però deve essere chiaro, secondo me, e questa cosa se la devono dire con grande chiarezza Brandelli e Cassano, che ci dovrà essere anche la possibilità di un impiego part time. Se si risolvono da questo punto di vista, secondo me è un giocatore imprescindibile, così come è imprescindibile Pepito. Pepito sta bene, recupera, lui è il titolare inamovibile di questa squadra. Mi è sembrato un viaggio alla speranza quella Coverciano con le stampelle. Vediamo. Cioè, siamo al 15 aprile, si tratta di giocare i mondiali. Poi, a differenza di Cassano, Rossi avrebbe un ruolo diverso in questa nazionale. A me sembra davvero molto tardi, eh. Poi tutti pronti a essere smentiti da Pepito Rossi. Sentiamo domani, Pier, ciao. Certo, ciao. Baci e abbracci, ciao. Salutaci a Cassano. Allora, strade, poi vi racconto dopo il traffico, cosa incredibile, sempre sul fronte del calcio internazionale. Prima Franco Piantarini mi ha fornito questi dati, le ultime, mettiamo 10 sessioni di mercato, saldo tra i soldi spesi e quelli incassati. Poi vi racconto delle cose pazzesche, a partire dall'Atletico Madrid per finire con il Manchester City. Tutti convocati. No, quello che volevo dirvi è questo, dati i calcoli sulle ultime 10 sessioni del mercato internazionale. Allora, l'Atletico Madrid, che ha la squadra che ha in questo momento, quindi semifinale di Champions, prima in campionato, eccetera, ha terminato 10 sessioni tra mercato estivo e quello invernale con un più 38 milioni di euro. Quindi non solo è fortissimo, ma è anche più ricco. Il Milan è inattivo, voi direte, vabbè, guarda dov'è, guardando sta, va bene, però sempre in questo lasso di tempo più 23 milioni di euro. Molto bene anche il Borussia Dortmund, stavamo parlando prima della perfetta opera di alto artigianato che ha costruito Klopp, e che è costata non tantissimo, cioè il saldo è un meno 4 milioni, che vuol dire sostanzialmente pareggio. E poi andiamo nel campo dei ricastri, con il Chelsea meno 311 milioni di euro, il Bayern Monaco meno 167 milioni di euro, Real Madrid meno 307 milioni di euro, e alla fine il Manchester City meno, Andrea Davarese me lo dica lei, meno quanto? Diciamo meno 500? Meno 400, facciamo meno 400. Spazzolati dal Liverpool, quest'anno non vincono niente, in linea di massima, meno 400, non male, bravi. Buono. Sì. Io tra l'altro sono tifoso del Manchester United, per cui mi fa particolarmente piacere. Non ho il dato sullo United, ma magari lo recupero. Una delle squadre più ricche del mondo, tradizionalmente in attivo. Non so quest'anno, però Non lo so nemmeno. Questo è riferito, ripeto, è un calcolo sul lungo periodo, che sono 5 anni, no? 10 sessioni di mercato, quindi così è. Però lo United anche quest'anno, nel tentativo di ricostruzione, ha speso un pochettino, senza però fare un granché. Come? ha speso male. Sì, ha speso male. Tanto. Senta, cosa ne pensa di Mourinho che ormai ha fondato praticamente una squadra di allenatori? Perché prima parlavamo del Liverpool, beh, Brendan Rodgers è stato suo vice. Bias Boas adesso è caduto un po' in disgrazia, però è stato suo vice. Beh, Mourinho, allora io non l'ho mai reputato un grande tattico, cioè nel senso io penso che Mourinho vada benissimo per il calcio inglese perché è un grandissimo motivatore. E nel calcio inglese ho sempre visto, cioè Ferguson non era un grande tattico, però era un plenipotenziario, uno capace di gestire tutto e un motivatore eccezionale. Voleva dire dell'altro? Per quello che non penso che, cioè nel senso penso che la squadra di Mourinho sia una squadra di, vedo anche Conte, perché Conte probabilmente anche un grande tecnico, però vedo che adesso vanno i più bravi, sono quelli più bravi probabilmente a tenere in mano lo spogliatoio, come anche Simeone ad esempio. Sì, beh insomma sono discorsi diversi, mi sembra che Mourinho sia il numero uno nel tenere in mano lo spogliatoio, perché io l'ho detto mille volte, qualcuno dice ah, beh, bravi tutti a vincere con le squadre forti, no, non è così, no, è un lavoro che bisogna saper fare, esatto, un lavoro non è né meglio né peggio, Mourinho, assolutamente. Sì, questo sì. Ma lei di cosa voleva parlare? Io l'ho trascinata su questa strada. No, ma mi faceva piacere, comunque no, io volevo parlare poi di calcio inglese perché domenica, allora io come vi ho detto sono tifoso del Manchester United, però non mi sono negato domenica Liverpool City e devo dire che è stato uno spettacolo che neanche il classico ha saputo offrire, ma non solo per la partita, per quello che è successo prima e quello che è successo dopo, cioè è stata una cosa incredibile. E quello che volevo dire è che secondo me il calcio inglese in questo momento è superiore a tutti gli altri, non tanto per i soldi che comunque fa la differenza, ma per lo spirito. Sì, che è qualcosa di non replicabile, no? Infatti io credo che comunque il calcio inglese abbia una sua identità molto particolare e quel tipo di campionato sia non sia rapportabile con alcun altro, insomma, giocano in quel modo, vivono il calcio in quel modo, lo sport in quel modo, poi non siamo qui a fare gli inchini Sanamelecchi, insomma è semplicemente così, quindi noi lo viviamo in un'altra maniera. Grazie Patroclo da Treviso, è un mio amico. Cos'è questo effetto di sottofondo? Ditemi voi. Incensare quelli d'oltre maniche, oltre misura, è così, poi magari c'è pure qualcuno a quale non piace, no? qualcuno che preferisce storie tipo quella di Genova. Patroclo? Pronto mister, grazie. Ciao. Per la convocazione. Grazie a te, dimmi tutto. Allora io volevo approfittare, guarda, intanto mi sono venuta la pelle d'oca, mi è venuta con questo coro The Buon Ultras degli anni storici, sì. Allora volevo approfittare per parlare del caso Icardi. Dimmelo. E finalmente farmi portavoce, farmi da pacere, volevo invitare ufficialmente il signor Icardi e il signor Maxi Lopez in cantina qui da me, beviamo una bottiglia di prosecco, tagliamo due fettine di salame e facciamo pace finalmente a questa il ring dentro all'aperto. Dove vogliono, qua anche qui in cantina in mezzo alle botti possiamo farlo. Ah, va bene. Va poi bene, con una bella stagione in casa ci mettiamo in vigna e così ne approfittiamo di queste bellissime giornate di sole. Grande. Allora io giro l'invito ai diretti interessati. Non so se viene anche Vandita oppure no. Forse meglio di no, ma va bene, si fa tra uomini. Grazie. Ovviamente Franco Piantanida, Robin Scatriti fanno gli arbitri. Mister Zeta convocati. Sì, no, io guardo da lontano. Grazie Patroclo, un abbraccio. Convocati in cantina, allora vi aspetto. Sì, io vengo, come no. Allora, non so se Icardi, bravo, non so se Icardi viene con Maxi Lopez, ma noi veniamo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Mi grazie dica. Per la convocazione. Senta, io telefonavo, volevo rispondere un attimo a quel signore interista, no? Quando ha detto che noi gobbi rivogliamo lo scudetto del 2005, non è che lo rivogliamo, noi l'abbiamo vinto quello. c'è un giudice che ha deciso che quegli scudetti non sono stati rubati. E solamente questo volevo dire, poi non voglio Giovanni, però 2005 qua si fa lunga, i giudici hanno deciso anche altre cose. Io continuo a pensare che il peccato originale sia stata l'assegnazione, la riassegnazione di quello scudetto che da lì è nato tutto. Sì, infatti, no, ma siccome è stato detto non lo rivogliamo, noi l'avevamo vinto quello scudetto, come c'è un giudice che ha detto che quegli scudetti sono regolari. Sì, Giovanni, lo so, il discorso si fa lungo, io devo chiudere, se vuoi ci sentiamo più tardi, abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Ancora Sampi in attacco, Castaldello messo giù, calcio di rigore, parte Maxi Lopez e la parata di Handanovic. Mi sembra che la volata prima delle 7 era in salita, adesso alle 11 ridiventa in discesa. Sono Gianmarco Pozzecco, l'allenatore dell'Orlandina, della tua squadra. Non ti ricordi più di me? Ma chi è? Ma mai passato un altro? Ma se siamo più scemo di quello di Napoli, come si chiamava quello di Napoli? Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Volevo risentire la canzone delle due ore insieme, non ce l'abbiamo più. No, dopo l'avevo fatto, perché due ore ogni giorno di tutti convocati, con molto più spazio per i nostri ascoltatori, che vogliamo anche adesso vestire con la nuova griff dell'estate, cioè la maglietta di tutti convocati. E ogni giorno il migliore in campo, all'ascoltatore che lo sarà a nostro insindacabile giudizio, e poi maglietta autografata. Per chi è commentatore per un giorno qui in studio, se volete, a tutti i convocati, a chi ci invierà il miglior commento sul fatto della settimana via audio, trovate tutto sul sito radio24.it, il fatto di questa settimana e il fatto di questa settimana, indovinate qual è, non ripeto più. Due ore di rabbia, due ore maledette, due ore impietose, oscure e barbare, due ore per tenere il dolore alla fine. Questa mi piace assai. Non sentire più niente che valga la pena. Giovanni da Prato, stavamo parlando prima, poi l'ho interrotta abbastanza bruscamente perché devo rispettare, pur all'interno di queste magiche due ore, devo rispettare degli orari precisi. Stavamo dicendo, dunque, a che punto eravamo? Facciamo un rapido riepilogo delle puntate precedenti. Allora, lei tifoso del... Io sono tifoso juventino, ma si sente. Si no, sente. Io più che altro avevo telefonato appunto perché sentendo quel signore che diceva del scudetto del 2005, dice lo rivogliamo, io insomma mi sono sentito un po'... Dio, ma non è che noi l'abbiamo rubato quello scudetto, noi per un giudice sono stati regolari. Quando io sento dire Calciopoli la Juve ha fatto, giustamente io ma juventino... la vedo in una maniera, chi non è juventino la vede in un'altra. Sì, e poi, però... poi ci sono anche delle sentenze che cantano come la carta, sì, no? Sì, ma sono delle sentenze che lo sa meglio di me, che le sentenze si basano su cose che non sono state riprese in considerazione. Vale a dire che è stato fatto delle sentenze su prove vecchie, non su quelle nuove che avevano portato dopo. Sì, perché andrebbe di fatto le sentenze sono le prove nuove che è stato portato. Purtroppo le sentenze non sono state fatte su quelle prove. Guardi Giovanni, io sono abbastanza integralista su questo, nel senso che secondo me se un campionato è irregolare, mi sembra abbastanza evidente se è stato irregolare, se una corsa irregolare, una gara d'appalto, un processo è irregolare, perché ci sono comunque delle prove, perché c'è un'evidenza, allora quel processo, quella gara d'appalto, quel campionato è nullo per me, e in quel caso i campionati furono nulli, e di conseguenza io trovo ripeto, il peccato originale è stata la riassegnazione di quei titoli che non dovevano andare alla Juventus, non dovevano andare a nessun altro, a mio parere. Però qui adesso apriamo un polverone che ve lo regalo, anzi facciamo così, andiamo da Patroclo e tutti sul ring, perché finisce così, io lo so. Sebastiano da Bari, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, dica. Volevo ricordare un po' a tutti quello che è accaduto all'Aisel. Avete parlato in maniera così, di quello che riguarda un po' la curva del Liverpool. Però forse si dimentica un aspetto. Fra di loro ci sono centinaia forse di assassini, o no? Ma adesso? Cioè, non è che quelli che... Allora, no, Sebastiano, ora, però non è, non è che 45. Quelli... Ho capito, però adesso i tifosi del Liverpool, cioè, sono degli assassini così in generale? Cioè, per sempre avranno questo marchio di infamia? Intendo questo, che è molto molto probabile. E fra di loro, fra quelli che fanno quel coro che voi avete fatto sentire prima, ce ne saranno di quelli che erano presenti quel giorno all'Eisel, quando 39 ragazzi juventini sono morti. E non va bene. Questo mi sembra che però, non sia una cosa bella. No, ma allora non potremo mai più sentire, cioè secondo lei non bisognerebbe mai sentire You Never Walk Alone cantato dai tifosi del Liverpool, né guardare le immagini di Anfield, perché quella comunque quella è un club, è una tifoseria di assassini. Si potrebbe ignorarli. Non la vedo così. Guardi, a me dà molto più fastidio i tifosi italiani che inneggiano all'Eisel, quelli mi fanno schifo. Così come quelli che inneggiano a Superga, così come quelli che inneggiano le tragedie, allora quelli sì, io non li sopporto. Ma se devo dire la verità, questo marchio di infamia nei secoli dei secoli mi sembra qualcosa di sbagliato. Poi è chiaro che tra i tifosi della Juventus, tra chi ha visto quelle immagini, io ho visto quelle immagini, ho visto quella partita, ho pianto quella sera, pur non essendo tifoso della Juventus, perché sono rimasto scioccato, ero ragazzino. Questo certamente, però dire da lì a dire questa comunque è una tifoseria di assassini, a me sembra tanta roba. Voglio tornare a un altro argomento sul quale mi ha trascinato, io non volevo più parlarne, però Patroclo da Treviso prima mi ci ha portato e quindi quasi quasi, vista la deriva che stiamo prendendo, ne parlo volentieri. Continuo a pensare che Icardi sia un meraviglioso tronista. D'Ambrosio morbido per Palacio, Icardi è solo, il cross per lui, Icardi! Sampdoria 0, Inter 1! Ancora Samp in attacco, Castaldello messo giù, calcio di rigore! Parte Maxi Lopez, la parata di Handanovic! Tu avresti stretto la mano ai Icardi? Sì, bisogna farle queste cose, quei però sono cosette che sono stanno così, non può stare né dietro. Non lo so, la colpa tanto è solo della moglie, colpa. L'avresti stretta la colpa è solo della donna. Nicola Berti, mamma mia, avrebbe detto non ci scommetterei. Comunque, no, volevo raccontarvi che oggi sulla solita maledetta rete è rimasta impigliata una bellissima fotografia, cioè di un bimbo con la maglia azulgrana del Barcellona che sorride felice come una Pasqua, mentre il suo idolo di allora, cioè un giovane biondo giocatore argentino appena arrivato al Barcellona, gli firma l'autografo. Non sto scherzando, cercatela, indovinate chi sono. Corrado Tedeschi, buongiorno, indovina chi sono. Buongiorno a tutti. Maxi Lopez, suppongo. E il bambino? Il bambino potrebbe essere uno importante adesso. Uno che ha il numero 9. Ecco, adesso nel Barcellona? No, nell'Inter. Icardi? Esatto. Sì. Il destino a volte è proprio... È strano, parto, era il 2005-2006. Nelle opere, sì. È una cosa... Questa storia è agghiacciante. A parte che Maxi Lopez è il grande vincitore, perché Maxi Lopez si è liberato di Van Donara. Sì. Questo, direi che questa è la vittoria più grande per... Senti, ma da tifoso sampdoriano e da giocatore di calcio, questa domenica, questa strana domenica, come l'hai vissuta? Cioè, che cosa ti è passato per la testa mentre guardavi quella partita? Che il destino veramente può essere di una crudeltà inaudita, perché proprio questa partita qui, proprio questo che fa gol, grazie tra l'altro a un paperone di Da Costa, che ahimè ogni tanto ce ne regala parecchie, insomma, e che faccia gol proprio questo qui, e proprio Maxi Lopez di rigore, e questo poi ne fa un altro. Insomma, devo dire che è proprio un gioco del destino crudelissimo, perché la storia è brutta. Sta continuando questo qui a mettere tweet, esatto. Si chiamano tweet. Sì. Oggi, tra l'altro, è apparso su Facebook, io sono naturalmente molto in contatto con i tifosi della Sampdoria, è apparso un video della signora Vandanara che fa delle acrobazie, devo dire, insomma, in un film porno, perché deve sapere il povero Icardi che comunque si è messo in un grande pasticcio. Sì. Perché se tu ferisci in quello lì, poi perisci anche nello stesso modo. E sì, sta sliding doors, sta sbagliando tutto. Tu dici il colpo di fortuna ce l'ha avuto il biondo rivale, però guarda, al di là di tutto, di questi tweet che sono agghiaccianti, no? Io ho sempre detto e continuo a sostenere, ma di quello che fanno fuori dal campo non mi frega niente, però c'è un confine, c'è un confine che fatalmente non può essere superato. Ma perché? Ma lo dicevo prima, cioè sono due personaggi pubblici, due colleghi che frequentano un mondo complicato come quello del calcio, cioè questa storia è ovvio che prende la deriva che tu stai descrivendo, no? Sai, Maradona ha detto una cosa, a me sono due le cose che mi hanno dato fastidio, una in particolare, devo dire da tifoso proprio, è viscerale, il fatto che nessuno dei giocatori della Sampdoria sia andato lì sotto la curva a prendere questo qui per un orecchio e portarlo via, perché una volta Maradona ha detto che questo qui ai suoi tempi l'avevo picchiato a turno. Sì. Detto da un suo connazionale, sì. Ecco. Diamogli la scusante della giovane età, ma la stupidità di questo qui ha raggiunto livelli clamorosi. E l'altra cosa è che l'Inter, bravo, non stia facendo niente. Bravissimo. Questo è vergognoso. Questo guarda, è vergognoso. Io comincio a pensare che il numero 9 sia probabilmente solo la vittima di un delirio, no? E dovrebbero essere altri, ad esempio appunto quelli che gli pagano lo stipendio e che hanno un cervello funzionante, a fermarlo. Certo, assolutamente. Bisogna smettere di consentire tutto a questi qua. Hanno sempre consentito tutto a questi qua. Io veramente, questo è fastidioso. Io ho visto ieri, purtroppo ho sentito il discorso così delicato della Isè, per carità di Dio. Però io ieri ho visto Gerrard, un campione universale, meraviglioso, piangere come un bambino alla fine. Per un amore scomodato per questa maglia, che non farebbe mai, non si azzarderebbe mai, credo, a fare una cosa del genere. Quelli sono i campioni. Io non credo che il campione debba insegnare l'educazione alle persone. Nemmeno io, per carità. Però qui, come dicevi giustamente tu, siamo andati oltre. Qui siamo al delirio totale e la società dovrebbe fare veramente qualcosa. Farebbe del bene a lui e a tutto il calcio. Sì, ma questo certamente. E quella sfida ai tifosi doriani? Quella è la cosa che, vabbè, sai, per noi veramente. Lì noi abbiamo invocato veramente l'entrata di Costa, che è diventato il nuovo grande idolo dei doriani, perché ha detto ai Cardi ciò che tutti noi avremmo voluto dirgli in quel momento. Sì. Ecco, non mi si può toccare. Io sono veramente un tifoso viscerale, credo che tu lo sappia. Non mi si può toccare la gradinata sud, perché è un pubblico meraviglioso. Un pubblico visto alzarsi in piedi per le grandi giocate degli avversari, eccetera. Quindi è un pubblico che ti ha anche dato molta fortuna, caro Cardi, il quale l'anno scorso a un certo punto ha smesso di giocare. Lo sapete che ha smesso di giocare, ha cominciato a togliere la gambetta, eccetera, perché sapeva che andava via. Sì. Quindi, ecco, insomma, però non si può fare. Cosa pensava di trovare i Cardi? Non so, dei petali di rosa stesi sul campo da gioco arrivando, pensava questo? Sì. Ecco, ma sai cosa, Corrado? Probabilmente la sua fortuna è stata quella di non trovare magari uno come Sinisa Mihajlovic ancora in campo. Bravo. O no? Bravissimo. Ai miei tempi, quando si giocava, si pagavano certe cose. Mm-hmm. Si pagavano molto duramente. Mm-hmm. E adesso invece è tutto così, un po', infatti Mihajlovic, io vorrei sentire la voce di Mihajlovic su questo argomento, ecco. Troppo furbo a parlare. Infatti furbo. Hai ragione, anche lui ha cominciato a dichiarare che il suo sogno è di allenare la Lazio e l'Inter, e mi ha di nuovo deluso, perché insomma, ma stai qui, non mandare questi messaggi, che i tifosi poi insomma ci rimangono, ma i tifosi ci credono, i tifosi sono ingenui, ci credono, hanno un grande amore, ci credono, se però poi tu un pochettino li prendi in giro non è una bella cosa. Sì, per però cui... sai, alla fine sono tutti così, anche JFK, no? Ti ricordi quando è arrivato da voi ha detto mi sento come JFK. Sì, effettivamente sono dei furbi, però insomma, io guarda... Ci sono degli eccessi che proprio non riesco a concepire nei tifosi, eccetera. Però il tifoso è ingenuo, il tifoso è sincero. Sì, sì. Forse è l'unica cosa vera che esiste ancora nel calcio, sono i tifosi. E quindi, insomma, quando questo fessacchione, non so veramente come chiamare, è andato lì sotto, veramente veramente ti vengono dei pensieri ti viene un po' di ulcera, insomma, questo lo posso capire. Grazie Corrado. Grazie a voi. Ti abbraccio. Grazie Corrado Tedeschi. 800 24 00 24, numero verde. Alessandro Terni, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per la convocazione. Una cosa al volo, prima di tutto, da Terni, Forza Ternana, perché la Serie B trovo poco spazio da te, però sempre Forza Ternana. Sì. Seconda cosa, se sai dei rumors che dicono del valzer anche di società, cioè qui si parla di Preziosi interessato al Bologna, se il Bologna si salva, volevo sapere se ne sapevi qualcosa. E cosa ne pensavi? Oltre al valzer degli allenatori, anche non sono così informato, però mi pare che su tutti questi discorsi siamo fermi ai rumors, cioè siano solo appunto voci di si dice, di possibilità, ma non mi risulta ci sia qualcosa di serio, di vero, Alessandro. Quindi attendiamo la fine del campionato, si risolverà qualcosa, sì, forse tra qualche mese. Secondo me è abbastanza difficile che si concretizzino valzer di questo tipo, anche se sono guarda, l'unica società che potrebbe il cui destino è interessante e cambierà è il Cagliari, perché io credo siano un po' eccessive le voci che vedevano il famoso sceicco interessato alle sorti del Cagliari, però ovviamente il Cagliari cambierà strada, cambierà proprietario, cambierà destino, ed è molto interessante anche perché per ragioni anche geopolitiche, insomma, il Cagliari è un club interessante per investitori stranieri. Assolutamente. E quindi io così a naso mi focalizzerei sul destino del Cagliari. Quanto al resto, secondo me, cambierà abbastanza poco. Fermi tutti, Boateng ha chiamato il figlio Maddox Prince. Che è sta roba? Maddox Prince. Mamma mia. Lorenzo da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno, beh, complimenti al Boateng. Maddox Prince Boateng, va bene. Io volevo dire una cosa un po' in controtendenza, relativa alla partita di ieri sera, Udinese-Juventus. È un po' un ragionamento che fa il paio rispetto a quanto ho sentito nel primo tempo. Sì. Il calcio inglese è migliore rispetto al calcio italiano, però una cosa va detta. Io convengo con lei che lo spirito inglese è solo inglese, però d'altra parte, guardi, mettiamola così, io ieri sera ho speso 120 euro in Curva Sud, perché ho preso 4 biglietti per il mio bambinetto, per un amico e per la mia dolce metà, e mi sono ritrovato a una partita che ha finito di regalarmi emozioni al 20° minuto del primo tempo. Sì. Ora, vi ho chiamato da voi dicendo il mio titolo di questa telefonata era la Juventus noiosa di Conte, ovviamente era una provocazione, però io penso che un ragionamento complessivo sul calcio italiano in generale vada fatto, perché al di là del fatto che ieri sera i due valori erano oggettivamente troppo distanti, c'era una superiorità incredibile, sì, però è inaccettabile che io dopo aver speso 120 euro per un biglietto abbia dovuto... Ma lei si aspettava qualcosa di diverso? Ma io dico in generale, perché veramente parlo di Udinese Juventus, ma potrei, guardi, estendere la mia considerazione a chissà quante altre partite. C'è un problema di fondo: il calcio italiano in generale, non parlo di bellezza, ma proprio regala poche emozioni. Ed è inutile poi che ci meravigliamo del fatto che abbiamo così pochi tifosi allo stadio. Sì, no, è anche una questione di sicurezza, però un ragionamento complessivo. No, è diventato abbastanza noioso. No, ma complessivamente io lo dico tutte le volte: il calcio italiano è noioso rispetto agli altri, perché è molto tattico, perché si gioca in un modo. Mi permetta, però cominciamo a farne anche una questione economica. O questi abbassano i biglietti e mi fanno dei prezzi minimamente popolari, adesso provoco ovviamente, però qualcosa bisogna fare. Sì, visto che lo spettacolo è questo, almeno non fatemi pagare tutti quei soldi. Questo lei, grazie, mi ha aiutato a rendere compiuto il mio ragionamento. Ecco, tutto qua. Quanto di carte, una piccola robettina, me la consenta. Sì, come no. Io dico questo. Secondo me c'è un'interpretazione anche sbagliata rispetto a come vediamo queste cose. Pensiamo, ma davvero pensiamo che Icardi possa essere migliore di quello che è? Davvero pensiamo che questi calciatori possano essere migliori di quello che sono, con punizioni, con considerazioni che vanno al di là del fatto semplice di considerare Lorenzo, io non li sopravvaluto, non lo sto dicendo di lei, dico in generale, cioè questa Icardi è un ragazzo che ha le braccia tatuate dalle ascelle fino alle punte delle dita dei piedi, più che altro secondo me ha qualche problema, però ad investire questi giocatori di un valore aggiunto nella nostra società che non hanno, cioè Icardi fa quelle cose lì e le continuerà a fare e non penso che sia né un modello positivo. Allora Lorenzo, continuerà a fare quelle cose lì, va bene, però visto che lo pagano due soldini, visto che è dipendente di un club e visto che è un personaggio pubblico, esattamente come quell'altro un personaggio pubblico, e che ci sono, insomma, non è uno scherzo tra due normali, cioè tra due frequentatori di un altro pianeta, di un altro mondo, e insomma secondo me in quel caso specifico ci sono dei limiti che sono stati abbondantemente superati e spetterebbe ad altri magari tentare di gestire minimamente un ragazzo che ha 21 anni, che in questo momento sta dando di matto, perché questo è, mentre ciò non succede. Luca, non è vero che ieri esaltavo divertito Icardi per i suoi comportamenti, questo non è vero, io dicevo soltanto, e lo ripeto, che tutto sommato a me quelli che dimostrano personalità di fronte a queste sfide in generale piacciono. Poi questa è una vicenda che ha talmente tante sfaccettature per cui un discorso di questo tipo rischia di essere un po' semplicistico. Massimo da Lecco, buongiorno. Dica. Finalmente signor Genta e Luigi Pardo c'è ancora? No, c'è da fare, torna domani. No, niente caro, due cose, perché io vi seguo da una vita, sì. Ancora prima quando c'era la trasmissione di prima, sì. Per cui figuriamoci, sono qui, c'è un altro, eccolo lì, sono in macchina, poi vi sento. Due cosette veloci se mi permettete, mi permetti. Allora, la prima, tornando al discorso di ieri, ma ragazzi, ma la Juventus ieri sembra quasi che l'Udinese non abbia giocato, no? Allora, posso dire che io sono juventino, che l'Atalanta, che io sono bergamasco anche, l'Atalanta è andata giù a Roma a fare la città premio. Posso dire che l'attore dell'Atalanta, ogni volta che va giù questo l'attore, l'Atalanta, ma non solo quest'anno, con Roma perde sempre, basta guardare. Non c'ha mai coltello tra i denti. Allora cosa vuol dire? Io so che tu Catania, sembravano invasati con le Catania la prima mezz'ora con noi. Poi la domenica dopo giustamente hanno pagato 4-3 al Napoli senza coltello. Ecco Massimo, io penso che, guardi, se vuole stare con me, io adesso però devo lanciare la borsa, possiamo chiudere il discorso dopo. Su questo argomento penso anche che il momento del campionato incida, perché continuo a credere che ci siano diverse squadre, tra queste c'è l'Udinese, che in questo momento proviamo a fare i bravi, non abbiano particolari stimoli. Borsa, poi torniamo. Tutti convocati. Allora, io torno per cambiare argomento, poi ricomincio a parlare naturalmente con gli ascoltatori. Per cambiare argomento, salutare e ringraziare Giacomo Agostini. Ciao Giacomo. Buongiorno, ciao. Buongiorno a te. Voi. Senti, volevo parlarne già ieri di quello che è successo domenica. Una domenica lunga per i motori, difficile, perché è difficile quando la morte ti attraversa la strada, e domenica è successo. A Misano. A proposito, Giacomo, quella pista presenta problemi di sicurezza? Assolutamente no, purtroppo sono cose che succedono, e quando succedono questi incidenti è difficile perché insomma quando si è tutti insieme la pista non c'entra niente, nel certo. Senso che se uno ti cade davanti è come anche in una strada normale, se uno si blocca davanti con la macchina lo investi, o si blocca davanti con una moto lo investi, certo. Quindi purtroppo lì c'è poco da fare, assolutamente, ma infatti io tristamente è triste dirlo, ma c'è poco da fare, assolutamente, ma poi io rischio di passare per cinico, no? Quando dico che questo fa parte del pacchetto, cioè è qualcosa che sarò cinico, però può succedere, ma d'altronde vediamo in percentuale, cioè nel senso, nella vita succedono tanti incidenti senza andare a 250 all'ora, sì. E quindi fa parte del mestiere, anche perché è un mestiere dove si va molto forte, ma in percentuale fortunatamente si muore poco rispetto a cosa si fa, rispetto a quante gare si fanno, rispetto alla gente che corre. Assolutamente. Giacomo, senti, invece su un'altra pista, cioè quella su cui si è corso domenica in Texas, ed era una pista sulla quale probabilmente nessuno poteva fare nulla contro Marquez, contro le Honda, però anche tu hai commentato la gara, le commenti per Cioè, eccetera eccetera, dimmi la verità, qualcosa di più te l'aspettavi quantomeno da Valentino Rossi e da Lorenzo? Ma sì, qualcosa in più di loro mi aspettavo, anche se Valentino era già terzo e senza problema io credo che terzo l'avrebbe fatto, insomma. Lorenzo ha fatto un grande errore, non lo capisco ancora, non riesco a capire come abbia potuto fare una cosa simile. Non è che però voleva, sapeva che era... secondo te non può essere, lui sapeva che non poteva battere Marquez, quindi ha provato a giocare sul filo, che sappiamo che una delle caratteristiche pazzesche di Lorenzo è quella di partire in modo perfetto e fare i primi quattro giri in cui ammazza tutti. Non può essere, sì, che avesse quell'idea lì in testa, quindi di arrivare proprio sul filo del semaforo per bruciare gli altri? Beh, ma lì altro filo, cioè, dico, è partito un sacco prima, quindi non è che il filo lo escluderei, perché non è che dico ha rubato un metro, è partito un metro prima perché è scattato. No, lì era partito, erano tutti ancora fermi, insomma, difatti lui si vede che quando è arrivato sulla prima fila ha chiuso l'acceleratore perché ha visto che non partiva nessuno. E poi ha riaperto, quindi, ma no, probabilmente l'emozione ha contribuito molto. Certo, tutti vogliono partire e essere primi in partenza, tutti cercano di partire e di fare una partenza migliore possibile, però ecco lì probabilmente non so che calcoli abbia fatto, ecco, non lo so. Senti, un'ultima cosa, adesso aspettiamo le altre gare, aspettiamo qualcosa di diverso, ci auguriamo che sia qualcosa di diverso, perché altrimenti Marquez rischia di massacrare davvero tutti in questo campionato, di fare una gran marmellata di avversari. Mi ha colpito una frase che ha detto, e cioè: ragazzi, fatevi sotto perché io là davanti rischio di addormentarmi. Ma insomma, non è vero, perché se lui non si vuole addormentare, basta che rischi qualche cosina meno e vada un po' meno, sta con gli altri, diciamo, così, no? Cioè, se lui si vuole divertire con gli altri, superarli eccetera, avendo qualcosa in più, basta che chiuda un po', vada leggermente meno e sta con gli altri, insomma, quindi, no? Quindi se vuoi divertire, divertiti, ragazzi. Intanto noi aspettiamo alla riprova anche la Ducati, che mi sembra stia andando bene, e anche Fenati, che invece ha fatto una gran cosa. Sì, ha fatto una gran gara Fenati, è stato bravissimo, sì, effettivamente l'ha meritato questo. Ducati anche, speriamo che migliori giorno dopo giorno, perché abbiamo bisogno di avere una marca italiana lì davanti. Grazie Giacomo, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Ciao, grazie ciao. Giacomo Agostini. 800 24 0024 il numero verde, Raffaele da Torino, e poi vediamo che arriva. Raffaele, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Torino e sono tifoso juventino. Sì. Volevo solo fare una considerazione: che Conte è il minimo che possa fare vincere il campionato con la rosa che ha, secondo me. Sì. E che Conte comunque ha dimostrato che deve ancora fare esperienza a livello europeo e a livello di gestione del gruppo. Perché è andato a fare dei cambi di formazione con Real Madrid, ad esempio, mettendo Bonna titolare quando non aveva mai giocato. Secondo me con la rosa che ha deve solo vincere, basta, il campionato. Non dobbiamo stupirci del terzo campionato che vince consecutivamente. Lui deve fare esperienza in Europa, perché in Europa, secondo me, ci sono delle squadre che giocano meglio, e poi col modulo che lui ha, in Europa non farà molta strada giocando a tre dietro. Sì. Siamo gli unici che giochiamo a tre dietro. Guardi, sono più o meno le cose che penso io, ma come ho detto già diverse volte, cioè continuo a sostenere che la Juventus e Conte abbiano bisogno di una dimensione europea. Anche perché questa, insomma, ieri sera ne parlavamo prima, no? Ieri sera ha avuto tanto da Giovinco, ha avuto tanto da Ogbonna, che sono giocatori marginali per la Juventus. Poi ha una rosa molto ampia, e questa sua allergia al turnover in effetti mi sembra un limite. Poi bravo a tenere questi sulla corda e ad avere qualcosa di importante da questi che per molto tempo non hanno giocato. Però lo interpreto come un limite, perché l'allenatore di stampo europeo di altissimo livello deve essere in grado di gestire per forza di cose al massimo livello rose ampie. Sembra che Conte in questo ci senta poco, non trova? Sì, sono perfettamente d'accordo con lei, assolutamente. Lui è andato a fare degli esperimenti contro Real Madrid mettendo Bonna centrale, quando fino a quel momento lì non aveva mai fatto giocare. Sì. Senta, posso fare una domanda maliziosa? Dica. Ma secondo lei l'Udinese ieri ha fatto finta? No, non, questo non penso. Questo non penso, no. Io sto estremizzando, però io non l'ho vista brillantissima. Così chiudo il discorso che stavo facendo con l'ascoltatore di prima. In questo momento della stagione, insomma, vale per l'Udinese ieri sera, vale per l'Atalanta contro la Roma. Ci sono squadre che non sono al massimo delle motivazioni, quindi si corre il rischio di vedere partite di questo tipo, e si corre il rischio anche di vedere un finale di stagione in cui le due davanti non perdono più. Io sono sicuro che il Milan e l'Inter arriveranno in Europa League, se i fatti mi smentiranno non lo so, ma sono sicuro che arriveranno in Europa League proprio per questa ragione. Grazie Raffaele, a proposito di Milan, stavo vedendo una notizia, clima sempre teso a Milanello, cioè era in programma questo incontro tra Galliani e Seedorf, questo incontro non c'è stato. Uno dice, ma strano, Milan continua a vincere, in questo momento è in striscia, sembra aver trovato equilibri, Seedorf ha già ampiamente battuto Allegri nel rapporto punti partite, uno dice ok, adesso è tornato il sole, e invece no, sembra che ci sia sempre qualche nuvola sopra Milanello. Mi intriga molto questa storia di zio Clarence, che è arrivato come il santone della montagna e adesso sembra diventato il curato della chiesetta in collina, perché con il vescovo Gagliani che sorveglia tutto, con le veline, i dispacci che arrivano, guarda Montolivo forse è meglio farlo giocare, guarda modulo così affascinante che hai in mente con tutta la qualità ammassata da davanti eccetera, forse non è il caso in questo momento, quindi mi intriga abbastanza questa storia. Poi Seedorf ieri ha detto no guardate che al 100% l'anno prossimo sarò allenatore del Milan, sono curioso di vederla. Alessandro da Pisa, buongiorno. Buongiorno Carlo Genta. Buongiorno. Complimenti. Grazie. Sono sandoriano, ero in gradinata sud, sì. Anch'io come tanti sandoriani avremmo avuto il piacere di avere Icardi in gradinata domenica. Volevo solo sottolineare però un fatto che nessuno ha detto: la gradinata sud tra il primo e il secondo tempo, quando Handanovic ha cambiato campo e è venuto sotto la gradinata, diciamo una buona parte, ha applaudito il portiere dell'Inter, ha applaudito perché nel primo tempo con i suoi interventi secondo me ha salvato il risultato per la squadra nell'azzurra. Cioè, quindi a volte si sottolineano sempre i gesti anche diciamo negativi, anche delle curve o dei tifosi, però secondo me a volte andrebbe anche un po' enfatizzati gli aspetti positivi degli stati. Certamente. Diciamo, e soprattutto delle cose. Infatti, questa io non la sapevo. Io questa non la sapevo, la ringrazio. Io ero con mio figlio di 13 anni. Io, diciamo, ho detto di tutti a un giocatore che ora veste la maglia dell'Inter e ha vestito la maglia della Sampdoria, che mi ha fatto esultare in passato. Però, secondo me, ci sono degli atteggiamenti antisportivi nelle tifoserie e in campo. Quindi, sì, diciamo, senta, io vorrei fare anche a lei però una domanda maliziosa. Mi dà un attimo il tempo di far ascoltare il traffico e poi gliela faccio, perché via SMS mi arrivano diversi paralleli che io non condivido fino in fondo. Voglio invece parlarne con lei. Tutti convocati. Allora, Alessandro da Pisa, tifoso sandoriano, le volevo chiedere questo. Lei si ricorda il derby in cui il signor Ronaldo con la maglia del Milan segnò contro l'Inter e poi si portò la mano all'orecchio? Anzi, tutte e due le mani all'orecchio, un po' come ha fatto Icardi. Se lo ricorda? Sì, me lo ricordo. Ecco. Ma io diciamo, la interrompo un attimo. Sì. Io non ce l'ho contro, diciamo, allora il mio... diciamo malessere, malumore verso Icardi, non ce l'ho perché per il gol e tutto. Il malumore nasce dal fatto, e nemmeno per la storia, cioè come avete detto voi, a volte nella vita siamo Maxi Lopez e a volte siamo Icardi. Sì. Io da padre non permetto, non vorrei permettere a nessuno di vedere è mio figlio che io devo tutelare. L'ho capito perfettamente. Anche l'errore di, cioè il problema è di della moglie di Maxi Lopez eccetera, però un bimbetto di 20 anni non si può permettere di avere quell'atteggiamento verso un figlio non suo. Ma sicuro, no, ma è questo, che è la cosa qui... che secondo me deve essere tutelata, deve essere enfatizzata, deve essere accusata da parte di tutti. Questo certamente, ed è anche maglia, il fronte cioè come tutte le tifoserie, i cambi di maglie Noi amiamo la maglia, non abbiamo sì. i giocatori in sé. Anche se è bene chiarire, e lei lo sa, come la voglio dire, la contestazione molto, molto violenta, verbalmente violenta, della tifoseria sampdoriana nei confronti di Icardi non fosse per questa storia di Vanda Nara eccetera eccetera, fosse per il suo atteggiamento dell'anno passato, quando ha levato esatto. la gamba per tutto, esatto. sapeva di andare via, esatto, quindi la contestazione era per quello, ma era quello che era lì che voleva arrivare, cioè voi come avete vissuto quel gesto di Icardi, simile è vero a quello di Ronaldo, no? Di fronte a una contestazione, a me piace anche il giocatore, le ha esagerato pure in quello, perché non è capace di nemmeno nella sfida è capace di contenersi il ragazzo, però il gesto non fu molto diverso da quello di Ronaldo, era quello che voleva arrivare. Poi sull'altro fronte, cioè il letamaio cui lei faceva riferimento, vabbè, penso che lì siamo tutti d'accordo, no? Noi mediamente di buon senso, quindi non c'è molto altro da aggiungere. Alessandro da Pisa, io la ringrazio. Da questo punto di vista sì. credo che l'errore più grosso sia stato dei giocatori in campo della Sampdoria, cioè? Perché c'è stato solo uno in panchina che ha fatto, diciamo, ha cercato un po' di far capire a questo bamboccio come ci si deve comportare in campo. Sì. Sì, sì, sì, poi è stato espulso. E anche questo episodio lo conosciamo, Alessandro. Grazie. Allora, io volevo prima vado a sentire una formica atomica di giornata, che è Giovinco, ma non può mancare nemmeno l'altra formica atomica, questa. Dopo una partita, 7 meno ci sono, eh? E come? Dammi, ci parlo io, vai. Sergio Granita? Con chi parlo? Ma che Carletto, sono il Pozzo, scemo. Sergio, sono Gianmarco Pozzecco, l'allenatore dell'Orlandina, della tua squadra. Non ti ricordi più di me? Ma chi è? Ma mai passato un altro? Ma sei scemo, più scemo di quello di Napoli? Come si chiama quello di Napoli? Ma chi, con chi parlo? Ma chi è? Vabbè. Ah, sì, dopo viene a comprare 4 grammi di droga, sì, un tossico. Sì, okay. Sei il suo pusher, ok, grazie. Che belli sti padretti. Ma che cazzo è? Ma può essere che quelli che capo Orlando anni 60, lavoro lì, tra l'altro. Cioè non solo lavoro qua all'Orlandina, ma lavoro anche quella radio lì. Faccio anche l'operatore ecologico a Capo Orlando, faccio tutto io. Vabbè, sapete chi è, no? Gianmarco Pozzecco, che ha vinto a Iesi blindando il secondo posto in Lega 2 e poi ha squillato il telefono di un giornalista in conferenza stampa, passala a me, è venuta fuori sta cosa qua, vabbè. Ditemi se è una formica atomica. A proposito di basket, poi ovviamente ne parliamo domani e domani l'altro, perché iniziano i playoff NBA, siamo all'ultimo giro di pista stagione regolare, ma praticamente tutto definito, ma soprattutto domani sera primavera milanese, perché inizia la serie dei quarti di finale di Eurolega tra l'Olimpia Milano e il Maccabi Tel Aviv, con ormai è diventata una costante col forum esaurito eccetera eccetera, quindi grande primavera milanese, se non nel calcio, nel basket di sicuro. Vincitore di oggi, maglietta, va a Patroclo da Treviso. Salve Patroclo. Pronto mister, grazie. Ciao. Per la convocazione. Grazie a te. Volevo approfittare per parlare del caso Icardi. Dimmi. Finalmente farmi portavoce, farmi da paciere. Volevo invitare ufficialmente il signor Icardi e il signor Maxi Lopez in cantina qui da me, beviamo una bottiglia di prosecco, tagliamo due fettine di salame e facciamo pace finalmente a questa ring dentro all'aperto. Dove vogliono, anche qui in cantina in mezzo alle botti possiamo farlo. Ah, va bene, va poi bene. Con una bella stagione in casa ci mettiamo in vigna e così ne approfittiamo di queste bellissime giornate di sole. Allora, maglietta di tutti i convocati di oggi, migliore in campo Patroclo, a lui una maglietta, a noi il suo prosecco. Paolo da Bologna, buongiorno. Buongiorno, grazie per lo spazio. Le volevo chiedere, non le sembra un campionato molto brutto, e soprattutto con delle disparità incredibili, visto anche quello che succede nella zona salvezza, dove ci sono delle differenze enormi rispetto alle prime in classifica, e dove vediamo delle compagini che sono ferme a punteggi ridicoli ormai da troppo tempo. Beh, questo è il più evidente sintomo del malessere calcio italiano, cioè non esiste più, questo può essere un discorso anche un po' di sociologia applicata, quello che fa la forza di un paese, in questo caso di un campionato, è la borghesia, no? La classe media. È sparita la classe media, rischia di sparire anche nella società, però è sparita la classe media nel calcio italiano, la buona borghesia non esiste più e ci sono queste differenze clamorose. Qualcuno sottolineava anche la differenza di punti che obiettivamente esiste tra la Juventus e l'Udinese in classifica, sono 49, tanta roba, poi non possiamo aspettarci più di tanto una partita equilibrata o un finale di stagione equilibrato, proprio in questo sta il più evidente sintomo dell'essere, perché vediamo la Roma che stampa record su record, per non parlare della Juventus, e diciamo le altre dove sono, guardiamo in fondo alla classifica e hanno un quinto dei punti che alle prime due, in effetti è vero, questa è l'evidenza di un campionato che la borghesia non ce l'ha più. Adesso ci fermiamo, vi saluto, torniamo domani naturalmente, tutti convocati, sempre per 2 ore, Franco Pentanino, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, ecco, hanno pubblicato anche sul sito della Gazzetta, andate a vedere, quando Icardi chiedeva l'autografo a Maxi Lopez, guardatevi quella foto lì, fate 2 risate, ciao. Se avete domande, se no me ne vado a far culo. Ciao, grazie, buonanotte.